America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. John Glenn was more than an American hero. For more than half his life, he was a 20th century icon. Ieri, a 95 anni, poi è stato un cancro che ce l'ha portato via, ci ha lasciato John Glenn, il primo astronauta americano allo spazio, l'ultimo grande eroe americano, come titolano un po' tutti i giornali di oggi negli Stati Uniti, un'icona americana, come ha detto il newscaster della NBC che vi ho fatto appena ascoltare, perché John Glenn è stato il primo americano nello spazio il 20 febbraio del 1962, tempi eroici, per cui vorrei riproporveli, perché ogni tanto il ricordo è importante. Sentiamo il momento del lift off e sentite la voce di Glenn per la prima volta dallo spazio. Well, Roger, reading you loud and clear, 7. Cape is go, we're standing by for you. Roger, Cape is go and I am... Ecco l'interloquire tra John Glenn e la stazione di terra, di controllo. C'è un messaggio da parte di uno dei controllori, to the Lord, al Signore, e poi il commento di Glenn. Wow, dice, la vista da qua è meravigliosa. Ecco, e l'America ancora ingenua degli anni 60, prima della guerra del Vietnam, l'America che c'eravamo abituati a conoscere in termini di valori, trasparenza, onestà, lealtà, e devo dire che oggi l'America piange non soltanto Glenn, ma in qualche modo piange anche un po' il suo passato, perché quelli erano tempi eroici davvero, quando l'Unione Sovietica aveva già mandato nello spazio Yuri Gagarin, quindi c'era una corsa spaziale, e quando la corsa degli Stati Uniti era ancora per la sopravvivenza contro il comunismo. Insomma, Glenn diventa il simbolo dell'America vera, profonda, delle campagne, quando era giovane, appena ventenne, subito dopo l'attacco di Pearl Harbor, lascia il college e si arruola per difendere il paese. A 22 anni, dopo l'addestramento, è già in missione. Poi, dopo la guerra, diventa pilota collaudatore. Vola il primo aereo supersonico dalla California a New York con un Volt Crusader, 3 ore e 23 minuti 8 secondi, un nuovo record. Insomma, Glenn aveva la stoffa per passare alla NASA quando c'erano i primi programmi spaziali nel 1959. Il resto è storia. Io ho conosciuto, ho seguito John Glenn quando era poi diventato senatore dell'Ohio, è stato anche il primo senatore dell'Ohio ad essere stato eletto per 4 mandati, dunque anche sul piano politico ha avuto molto successo, era molto legato ai Kennedy, e dunque insomma la notizia di ieri, devo dire, mi ha colpito, come ha colpito l'America sul piano simbolico, per la riflessione su umori, sentimenti, ideali che insomma oggi si trovano meno, oggi c'è molto più cinismo da noi come in America. Mi ha colpito perché giorni fa, tra l'altro, ho visto l'anteprima di un film che si intitola Hidden Figures, che racconta la storia di 3 donne afroamericane che all'inizio degli anni 60 lavorano come scienziate alla NASA e contribuiscono proprio al successo della missione di John Glenn. Sentiamo. You have identification on? We're just on our way to work at NASA, sir. I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. Ecco, ho voluto proporvi uno stralcio di un film, ve ne proporrò anche poi un altro. E qui in questa scena 3 donne afroamericane sono su un'auto, parliamo di nuovo fine anni 50, inizio anni 60, in una strada della Florida, vengono fermate da un poliziotto che dice: documenti, avete i documenti? E sono un po' preoccupate. Allora, come oggi, essere nere ed essere fermati da un poliziotto poteva essere un problema. Una di loro dice: ma lavoriamo alla NASA. E il poliziotto dice: non avevo idea che ci fossero donne nere alla NASA. E la ragazza risponde: ci sono parecchie donne alla NASA. Ecco, queste sono 3 ragazze brillanti, è stato scritto un libro su di loro, hanno una loro storia, bravissime in matematica, hanno vinto concorsi nazionali e con borse di studio diventano scienziate matematiche, vengono appunto assunte alla NASA, ma c'è la segregazione anche alla NASA, bagni separati sul lavoro, caffè separato, isolamento. In un'altra scena una di loro dice: ma dice, le donne fanno qualcosa di importante alla NASA non perché abbiamo le gonne, ma perché portiamo gli occhiali. Lei in effetti ha gli occhiali, insomma, è un po' una secchiona forse, ma molto simpatica e intelligente. Ecco, la cosa interessante è che non parla di afroamericane, parla di donne, perché anche le donne allora ovviamente avevano un profilo molto diverso. Sentiamo di nuovo. In 14 days astronauts will be here for training. Everything we do can matter to their wives, to their children. Ecco, qui è Kevin Costner che parla, è l'attore protagonista del film, il capo della NASA, dice: in 14 giorni gli astronauti saranno qui per l'addestramento, da voi dipenderanno le loro vite e quelle delle loro famiglie. Ecco, è lui che abolisce la segregazione nei gabinetti alla NASA, e nel film appare anche John Glenn, e John Glenn si fida di queste ragazze nere, di una in particolare che deve calcolare e verificare l'angolo preciso del suo rientro in atmosfera. Se il calcolo è sbagliato, la capsula si surriscalda e esplode. A un certo punto, tra l'altro, John Glenn chiede: ma chi ha fatto i calcoli? Li ha fatti quella ragazza che studia tutti gli angoli? Sì, dice allora mi fido. Ecco, anche queste tre donne sono delle eroine, sono l'avanscoperta di mille drappelli, movimenti, proteste, il più importante ovviamente di Martin Luther King, per dare agli afroamericani i diritti civili. Insomma, c'è la conquista spaziale, ma c'è la conquista anche dei diritti. E come dire, tra i ricordi di Glenn delle esplorazioni spaziali, i ricordi di questo film, ho avuto una serie di flashback di questa epopea eroica degli Stati Uniti d'America. E poi, poche ore dopo, ho letto della nomina di Trump per il Dipartimento al Lavoro. Ha scelto Andy Putzder, che è l'executive di una catena di hamburger, contrario agli aumenti salariali, contrario alle protezioni per i lavoratori introdotte da Barack Obama su orari, su tempi, eccetera, eccetera. E il signor Putzder fa anche pubblicità ammiccanti con donnine svestite che invogliano a mangiare l'hamburger. Ecco, come dire, oggi abbiamo due Americhe a confronto. Non ci sono giudizi, attenzione, perché la storia cambia, ma sono delle fotografie. Le nazioni si evolvono, i valori si modificano. E la fotografia ci dice che oggi abbiamo un'America che si sente in crisi, che vuole recuperare il suo ruolo, vuole paradossalmente tornare al 1962, quando conquistò lo spazio, arrestò l'Unione Sovietica. Insomma, come dice Trump, l'America vuole tornare grande. Ecco, non credo che Glenn avrebbe usato gli stessi metodi, ma chissà, forse ha ragione Trump. In guerra, come dice lui, tutto vale. Qui su America 24 continuerò ad approfondire questa nuova avventura americana di Trump, che apre comunque un nuovo capitolo nella storia di questo paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di nuovi orizzonti, di viaggi, di voli. Living on a Jet Plane di John Denver. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn, the taxi's waiting, he's blown his horn, already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!